Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko, 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica da Via Zanardi in rifacimento asfaltatorio a Bologna naturalmente. Potete anche ascoltarci in tutto il mondo tramite l'apposita app che potete scaricare gratuitamente dal sito radiocittafujiko.it, naturalmente città senza accento. E nelle province limitrofe anche tramite il DAB. Mercoledì ore 10:30 segna l'inizio di Città Fujiko Live Club, trasmissione che si propone di farvi ascoltare per un paio d'ore musica registrata dal vivo, musica ufficiale di tutte le epoche e di quasi tutti i generi. Fra l'altro oggi siamo al 30 luglio 2025, diciamo che questa trasmissione chiude ufficialmente la stagione 2024-2025, un po' di ferie in quel di agosto, poi torneremo, probabilmente tornerò almeno io alla fine di agosto per dare l'inizio alla stagione 25-26. Ma intanto andiamo con questa trasmissione, lo ripeto, di mercoledì 30 luglio 2025. E anche quest'ultima trasmissione inizia come sempre del resto con una novità, e oggi è una novità veramente succulenta, almeno per quel che mi riguarda, ma prima devo aprire la solita parentesi, e la novità è per quel che riguarda la mia trasmissione, cioè io non ho mai fatto ascoltare il disco, il triplo CD che è la novità che vi propongo quest'oggi, magari qualche altro collega ve l'avrà fatto ascoltare decine e decine di volte, ma la novità è per quel che riguarda Città Fujiko Live Club. E ho già spoilerato che si tratta di un triplo CD che racchiude l'ultimo concerto di una delle più grandi band di rock in genere, alcuni dicono di rock sudista ma io dico di rock in genere, che si chiamava Allman Brothers Band. Il titolo in realtà, cioè il titolo totale, si chiama, dice Final Concert 10-28-14, sarebbe 10-28-14 nel mio inglese maccheronico, che è la data all'americana dell'ultimo concerto appunto dell'Allman Brothers Band, il 28 ottobre del 2014 al Beacon Theater di New York. Due parole sull'Allman Brothers Band, spero che non ce ne sia bisogno, perché è una grandissima band che si è formata nel 1969 a Jacksonville in Florida, i due fratelli Duane e Greg Allman l'hanno formata, e poi presto però si sono stabiliti, hanno traslocato, diciamo così, sono trasferiti a Macon in Georgia, che dall'inizio degli anni 70 è diventata la loro sede. Appunto sono sciolti nel 2014 con però alcune interruzioni, sono stati diversi problemi legati alla morte di alcuni dei componenti, alla tossicodipendenza di altri, insomma ci sono state, è una band movimentata diciamo così, e però è sempre stata autrice di musiche favolose, di concerti favolosi, lunghissimi, una delle grandi band del cosiddetto jam bands movement, anzi direi che insieme a Grateful Dead è stata quella che ha dato il via a tutto questo bellissimo movimento americano. Chiaramente, come tutte le jam bands, hanno fatto un sacco di album dal vivo e ve li consiglio spassionatamente tutti, perché sono uno più bello dell'altro, sia ufficiali che semi-ufficiali, che anche bootlegs. Alcuni sono veramente registrati molto bene, anche perché loro consentivano al pubblico, ai propri fans, di registrare i concerti. Questo, come dicevo e come dice il titolo, è stato registrato il 28 ottobre 2014 al Beacon Theater di New York City. Fra i tanti pezzi che formano questo album, questo triplo CD, ce ne sono anche di lunghissimi, fra parentesi, ne ho scelto uno che è uno dei loro classici, si chiama And Wasting Time No More, Allman Brothers Band. Yeah. Non voglio perdere tempo, and wasting time no more. Erano Allman Brothers Band, loro non perdevano tempo nei loro concerti. Da un pezzo si seguiva subito il seguente, come avete sentite anche in sottofondo. E questo brano è tratto dal triplo album che racchiude il loro concerto finale, appunto Final Concert 10-28-14, che è la novità che vi propongo quest'oggi, il tutto registrato al Beacon Theater di New York City. Beacon Theater, che sarà il perno della prima parte di questa trasmissione, perché è un teatro storico, è situato al 2124 di Broadway in New York City. È stato aperto nel 1929 come cinema, come del resto quasi tutte le sale storiche americane, perché è iscritto anche il Beacon Theater alla lista dei palazzi storici, dei siti storici americani. Parliamo naturalmente, come ho detto, del 1929, casa mia a circa quell'età lì, e ha una capacità di 2894 persone sedute su tre livelli, e tutto questo dopo il rinnovo che è stato fatto nel 2009. È aperto alla musica, diciamo, ai live shows nel 1971, dopo che l'altro mega super locale di New York, il Fillmore East, chiuse per motivi economici, diciamo così. Loro, Allman Brothers Band, è sempre stata, ha avuto una residency in questo Beacon Theater da tantissimi anni, dal 1989, e nei mesi di settembre-ottobre, e durante una di queste appunto hanno registrato l'ultimo concerto. Il testimone di questa residency è stato poi preso dalla Tedeschi Trax Band, del quale magari parleremo dopo. Sono stato personalmente una volta al Beacon Theater a vedere Gary Moore nel maggio del 1992, ero in piccionaia praticamente, ma si vedeva e si sentiva benissimo. Avete visto quello splendido film di Martin Scorsese che si chiama Shine a Light? Se non l'avete visto avete fatto male, e avete fatto male anche se l'avete visto sugli schermi minuscoli dei vostri devices, perché è un film che va visto nel grandissimo schermo, più grande e meglio è, perché Martin Scorsese è veramente un manico e sembra quasi di essere insieme alla band a suonare sul palco. E infatti Rolling Stones hanno registrato Shine a Light, sia il film che il doppio CD, proprio al Beacon Theater il 29 ottobre e il 1 novembre del 2006. Ci andiamo ad ascoltare Rolling Stones, un paio di cose britanniche per aprire questa serie dedicata a un locale tipicamente americano. Rolling Stones hanno una simpatia veramente spiccata per il diavolo. Just stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for a change. I killed the Tsar and his ministers, and I stayed there screaming and vying. I rode a tank in a generous rank with a mystery rage and a body stank. Come on, play the big tune. Hope you feel fine, day. I mean, buzz with you is just a neat job. talk. Non troverete questo NIC, che sta per New York City 2001, nei negozi, perché è in un momento di bontà di Mr. Fripp, era dato in download gratuito sul sito della DMG, che è il sito ufficiale dei King Crimson. DMG sta per Displaying Global Music, racchiude tutto quello che volete sapere sui King Crimson. Questo NIC 2001 è stato registrato il 14 dicembre del 2001 e il brano che ci siamo ascoltati era Elephant Talk. Come dicevo, negli ultimi anni, dopo lo scioglimento della Allman Brothers Band, il testimone delle Residencies al Beacon Theater è stato preso dalla Tedeschi Trucks Band. Del resto Derek Trucks è stato per gli ultimi anni uno dei due chitarristi, l'altro Warren Haynes, è uno dei due chitarristi della Allman Brothers Band, quindi c'è una certa continuità in tutta questa cosa. Infatti la Tedeschi Trucks Band, quella che ci siamo ascoltati, una band che è stata fondata da marito e moglie, appunto Susan Tedeschi e Derek Trucks, nel 2010. Notizie di questi ultimi giorni: mese prossimo, il 12 esattamente di settembre, uscirà un nuovo album live che però racchiude un vecchio concerto che loro fecero insieme a Leon Russell, omaggiando quel splendido album, quella splendida cosa, non so come definirla, che è stata Mad Dogs and Englishmen. Quindi naturalmente questo album arriverà subito a casa mia, e altrettanto subito ve lo farò ascoltare, ve lo proporrò come novità. Comunque, la cosa che ci siamo ascoltati viene dalla versione deluxe o deluxe di un album, il terzo album di studio della band, che si chiama Let Me Get By. E nella edizione deluxe c'era un bonus CD con diversi brani remixati e tre brani dal vivo registrati al Beacon Theater nel 2016. Il brano in particolare che ci siamo ascoltati si chiama Keep On Grooving, e originariamente era inserito in Lila, l'album d'esordio, l'unico album in studio di Derek and the Dominos, che guarda caso vedeva alla chitarra Dwayne Allman della Allman Brothers Band. Nel 1971 Donald Fagen, tastierista e cantante, Walter Becker, chitarrista e cantante, fondarono gli Steely Dan. Allora erano un quartetto, poi dopo si sono praticamente sciolti, per un certo periodo non hanno fatto nulla, per un altro certo periodo riformati solamente in duo, appunto da Fagen e Becker. Sono stati solamente una band di studio, non facevano concerti. Poi hanno iniziato a fare concerti e pubblicarono a suo tempo un album live. Purtroppo nel 2017 Walter Becker è morto, ma Donald Fagen ha deciso di continuare con il nome Steely Dan. In realtà alterna nella propria discografia album a nome suo, Donald Fagen, e album a nome Steely Dan. Addirittura ne sono usciti due live quasi contemporaneamente, attribuiti a uno e alla band. Quello che ci andiamo ad ascoltare si chiama Northeast Corridor, il corridoio di Nord-Est, ed è stato registrato in diverse occasioni, in diverse località, in diverse serate. Quello che ci andiamo ad ascoltare è stato registrato al Beacon Theater del 2019, è uno dei super classici degli Steely Dan, si chiama Body Shaft. We'll be right back. Little Steven ha fondato i Disciples of Soul nel 1982, però c'è stato un break dal 1999 al 2017, dove è tornato con la band ampliata, con tanti fiati, tre coriste, eccetera, eccetera. E dal 2017 ha pubblicato ben tre album live, questo è il terzo, si chiama Summer of Sorcery Live, l'album in studio precedente naturalmente si chiamava Summer of Sorcery, e spero che non ci sia bisogno di presentare Little Steven, ma comunque una volta ne parleremo diffusamente, perché adesso il tempo sta incalzando, diciamo. Il tutto è stato registrato al Beacon Theater, è un triplo fra parentesi, due CD comprendono l'intero concerto, il terzo invece ci sono registrazioni effettuate qua e là insieme ad ospiti, ed è così che dovrebbe essere un triplo album live. Comunque il tutto è stato registrato il 6 novembre del 2019 a New York City, il brano che ha scritto lui, Little Steven, per Southside Johnny and the Asbury Jukes, che sono stati citati in chiusura, si chiama Love on the Wrong Side of Town. And they were more than just beautiful records, because in those days, you know. Andiamo a concludere con una band che non è molto conosciuta dalle nostre parti, ma è molto molto apprezzata negli Stati Uniti, soprattutto nella parte nord-est. Infatti loro vengono da Somerville in Massachusetts, sono attivi dal 1991. Si chiamano Guster È una band che è molto apprezzata soprattutto nel circuito delle college radio e da un certo pubblico, diciamo, alternativo. Hanno avuto qualche top 40, qualche singolo nei top 40, e però il loro, anche in questo caso, la loro forza è quella dei concerti. E in concerto, per un certo periodo, hanno riproposto tutti i loro album dall'inizio alla fine, naturalmente non nello stesso concerto. In questo caso, al Beacon Theater di New York City, il 30 novembre del 2013, hanno suonato per intero il loro album, che si chiama Keep It Together. E l'album che ne è seguito, che è quello che ci andremo ad ascoltare, si chiama Keep It Together, Live from the Beacon Theater. E niente, il brano che ho scelto per voi è un titolo programmatico e spero che vi porti fortuna, come porti fortuna a me, se vi vanno bene le cose, perché il titolo è I Hope Tomorrow Is Like Today. Spero che domani sia come oggi. Conclude questa piccola rassegna dedicata al Beacon Theater di New York City. Sono rimaste fuori tantissime cose, fra cui anche i Gov Mule, dell'altro ex chitarrista della Alma Brothers Band, Warren Ace, ma non c'era proprio il tempo. Guster, il pezzo I Hope Tomorrow Is Like Today. Ci sentiamo dopo la pubblicità. Sleeping, sun arise like yesterday. Everything that we are now is everything we can let go, or it's gone forever. Like today, don't you go away tomorrow. I don't think I can handle that. Seconda parte di Città Fujiko Live Club, siamo al 30 luglio del 2025, seconda parte che è iniziata, anzi, con la novità che vi propongo quest'oggi, Final Concert 10-28-14, l'ultimo, chiamiamolo così, album che racchiude l'ultimo concerto della Allman Brothers Band in quel del Beacon Theater di New York City. Il classico che ci siamo ascoltati si chiama Midnight Rider, molti di voi lo conosceranno in versione diversa, soprattutto quella di Joe Cocker, ma questa è la versione originale, visto che il brano è stato scritto da Greg Allman, tastierista e cantante di questa spettacolare e magnifica band, il tutto registrato appunto al Beacon Theater, come dice il titolo, il 28 ottobre del 2014. Molto velocemente passiamo subito a Record Today, la rubrica sempre inserita all'interno della trasmissione che si preoccupa di farvi ascoltare i brani che sono stati registrati. Sono tedioso, lo so, ancora una volta vi dico che ci sono tantissime cose registrate in questo 30 luglio, del resto concerti, festival, eccetera, cioè, si sprecano in queste giornate e quindi il criterio di scelta è quello di un brano per ogni decade. E iniziamo dal 1971, vorrei dedicare questo brano ai millennials come me, perché questo brano ha avuto un successo strepitoso nel 1971, è stato in testa a un sacco di classifiche, Italia compreso, e veniva da un gruppo olandese, gruppo che si chiamava Shocking Blue, cosiddetto One Hit Wonder, cioè quelle bands che fanno un grande successo con un brano e poi dopo cercano di barcamenarsi nel corso della loro carriera. A dire il vero c'è un altro brano famoso che si chiama Love Buzz, che alcuni di voi ricorderanno inserito nel primo album dei Nirvana, il primo singolo addirittura dei Nirvana, quindi una cosa abbastanza conosciuta. E il brano che ci andiamo ad ascoltare è il loro appunto massimo successo, si chiama Venus, è stato registrato in Giappone perché fecero un tour anche in Giappone, l'album naturalmente si chiama Live in Japan, è stato registrato al Kosei Nenkin Kaikan di Tokyo il 30 luglio del 1971, Shocking Blue, Venus. Venivano da Den Haag in Olanda, sarebbe l'Aia, non ho mai capito perché questi nomi delle città straniere vengono stravolti. Se si chiama Den Haag, si chiama Den Haag, come Antwerpen, si chiama Antwerpen e non Anversa, ma questo è un altro discorso. Venus, il brano che ci siamo ascoltati, registrato in Giappone il 30 luglio del 1971, hit mondiale all'epoca, veramente si sentiva dappertutto nelle poche radio che c'erano all'epoca e tutte di stato. Passiamo agli anni 80, precisamente al 1988, e qui abbiamo una cosa un po' particolare, a dire il vero, perché ci andremo ad ascoltare i Fish, ma sono i Fish, i primi Fish, cioè quelli ancora imberbi, ancora alla ricerca di un proprio suono, ancora appunto alla ricerca della coesione che hanno tuttora. Fra l'altro l'ultimo tour pare sia stata una cosa strepitosa. Comunque, qui siamo nel 1988, c'è una storia da raccontare molto velocemente, perché la fidanzata di Mike Gordon lavorava in un bar, Roma Bar Telluride in Colorado, e disse che il suo padrone poteva organizzare un mese di tour in Colorado per i Fish. Loro non erano mai usciti dal Vermont, che è il loro stato di provenienza, esattamente da Burlington, preso su armi e bagagli, salvo poi scoprire che questo qua era un millantatore, e fecero pochissimi concerti, quasi tutti a Roma Bar. E a questo Roma Bar e ad un altro che credo si chiami Capitol, ma non ricordo più, sono stati registrati questi tre CD nel corso di diverse serate, che formano Colorado 88, una cosa molto, molto strana. Come dicevo, il suono, adesso lo sentirete, non è assolutamente quello che conosciamo dei Fish, ma il tutto è già in embrione. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è una cover, un classico jazz di Herbie Hancock, si chiama Maiden Voyage, il tutto, come dicevo, registrato a Roma Bar Telluride, Colorado, il 30 luglio 1988. Thank you.

Praticamente in trio questa cover di Maiden Voyage di Herbie Hancock da parte dei Fish. Probabilmente Trey Anastasio, il chitarrista, era andato al bar a farsi una birra, ma comunque il pezzo è molto molto accattivante secondo me. Come dicevo, sono i Fish in embrione, non ancora perfetti come adesso, che sono veramente grandiosi. Il tutto tratto da un album che si chiama Colorado 88 e registrato appunto a Roma Bar Telluride Colorado il 30 luglio 1988. Passiamo al 1997 con un cantante di quelli che ce ne sono migliaia, oserei dire, negli Stati Uniti. Ogni tanto hanno un successo, questo si chiama Eddie Money, ne ha avuto diversi di successi, ma la sua carriera è sempre stata un po' altalenante. Ha fatto 3 album live, questo che ci andiamo ad ascoltare si chiama Shaking with the Morning Man. Le prime 4 canzoni sono in studio, le altre 10 invece sono registrate al Galaxy Theater di Los Angeles, California. Lui arrivava da New York City il 30 luglio del 1997. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è tutto un programma. Lui si chiama Eddie Money, il brano si chiama Wanna Be a Rock and Roll Star. echoes of hope lie beneath their feet, struggling hard to make ends meet. Hanno avuto un successo strepitoso con la loro versione della Bamba, un classico della musica nortegna, ma in realtà i Los Lobos hanno molto molto altro nel loro carniere, e questo è uno dei pezzi più belli della loro discografia. Si chiama The Neighborhood, è stato registrato al Fillmore Auditorium di San Francisco, California, naturalmente, da questa band che arriva da un po' più giù, da Los Angeles, anzi da East LA, ed è attiva dal 1973. Loro alternano brani in inglese e spagnolo, molti di quelli spagnoli assomigliano tragicamente al nostro Liscio, ma sono ugualmente molto accattivanti. Hanno fatto diversi album live, alcuni dei quali li potrete trovare solamente sul loro sito. Questo Live at the Fillmore è uscito in alcune copie con un bonus CD che si chiama Acustica in Vivo, con 5 o 6 pezzi, non ricordo bene, acustici, registrati però in un'altra occasione. Questa invece era The Neighborhood, al 30 luglio 2004, Los Lobos. La tierra santa, tierra pura, per andarmi una fortuna. Cambiamo radicalmente musica, proprio tutta un'altra cosa. Siamo in Portogallo, una nazione che non è molto frequentata nelle discografie mondiali di tutti gli artisti, ma il 30 luglio del 2010 era in concerto a Évora, nella zona industriale di Évora per la precisione, Peter Murphy, che molti di voi ricorderanno essere il cantante dei Bauhaus dal 1978 fino ad oggi, anche se le interruzioni e le riprese sono state innumerevoli. Dopo il primo scioglimento di Bauhaus, lui formò una band che si chiamava Daily Scar, però è durato solamente un album nel 1984. Qui invece ce ne andiamo ad ascoltare Peter Murphy in versione solista. L'album si chiama Peter Live Volume 1 Covers, e già spiega il contenuto di questo ottimo album, registrato in diverse occasioni, in diverse epoche. Sono tutte covers di altri artisti. Il 30 luglio del 2010, appunto in Portogallo, a Évora, proponeva questa spettacolare, bellissima, secondo me, versione di un classico che riconoscerete sicuramente, David Bowie. Si chiama Space Oddity.

Una delle poche voci in grado di competere con quella di David Bowie, autore originale di questa Space Oddity, ce la siamo ascoltati da Peter Murphy, registrato in Portogallo a Évora il 30 luglio del 2010. Come al solito sono in ritardo, per cui molto velocemente, prima di andare con l'ultimo brano che conclude sia Ricordi Today di oggi che la stagione di Città Fujiko Live Club 24-25, 2024-2025, vi voglio ricordare appunto che vi siete ascoltati Città Fujiko Live Club, un paio di ore di musica il mercoledì di quasi ogni genere, ma di tutte le epoche. Città Fujiko Live Club che va un po' in ferie, come tutta la radio del resto. Ci sentiremo, presumo, il 27 agosto con sempre novità e sempre tantissima musica live. Vi lascio in compagnia di un album che vi ho proposto come novità qualche tempo fa. Loro sono i Black Pumas, un duo di Austin, Texas, che ha fatto questo dischetto che si chiama Live from Brooklyn Paramount, registrato il 30 luglio del 2024, quindi praticamente un anno fa. Il pezzo col quale vi lascio e con il quale voglio brindare a voi si chiama Sauvignon, Black Pumas. Ciao a tutti da Nevio. Okay, all aboard. Just run. Forever hold your peace. Sauvignon on the ferry, making love, feeling merry, on the ride of a lifetime. Rain and sunshine on this ferry. But you can be today. Cause if I can't get it off, I got to blow your mind one more time. Let me sing this song, baby. And rock and roll, holy rollers know. On the leather, baby, and behind the yoke. They said if the sky should fall down Brooklyn City, we gon' make it home, town. Oh, the waters take me and release my soul for the whole town to see it. Come on. Starving young on the ferry, making love, making love, feeling merry. For you, don't know what to do when I come for you.